La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'eguaglianza è un caposaldo di tutte le democrazie, una delle dichiarazioni fondamentali che nasce fin dalla Rivoluzione francese, l'eguaglianza di tutti davanti alla legge per superare proprio l'idea medievale, feudale, cetuale. E la nostra Costituzione declina l'eguaglianza nella sua massima ampiezza. Nella prima parte, nel primo comma, pone l'eguaglianza formale. Tutti i cittadini hanno pari dignità davanti alla legge e non ci può essere alcuna discriminazione. Qui il Costituente ha voluto specificare che sono vietate le discriminazioni per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e condizioni sociali, proprio per dire tutti devono avere uguale accesso allo Stato. Ma nel secondo comma c'è ancora di più, c'è una grande promessa della Repubblica, l'eguaglianza sostanziale, in quanto noi sappiamo che non siamo tutti per nascita identici nelle capacità, nelle possibilità, nei mezzi, e allora uno Stato veramente partecipato, uno Stato che veramente vuol dare lo spazio ai propri cittadini, cosa fa? Ci promette l'eguaglianza sostanziale, cioè ci promette che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza e quindi il pieno accesso alla gestione dello Stato e della cosa pubblica. È molto bello e molto interessante questa duplicità, questi due commi, perché il primo comma è di impostazione chiaramente liberale, no? Rivoluzione francese, l'eguaglianza formale di tutti davanti alla legge. Secondo comma, invece, ha più quel sapore socialisteggiante. D'altra parte, i socialisti erano il partito in fondo di maggioranza in Assemblea Costituente e quindi questo compito proprio di voler far partecipare tutti alla gestione della cosa pubblica. Siamo tutti uguali, dobbiamo diventare tutti più uguali. Ma questa eguaglianza come si attua? L'eguaglianza formale, quella del primo comma, si attua evitando che la legge possa porre discriminazione e quindi trattando in maniera uguale gli uguali, diversa i diversi. L'eguaglianza sostanziale, invece, si attua mediante delle azioni che vengono chiamate positive, cioè le leggi devono favorire a tempo, ovviamente, determinate categorie, le donne, i minori, gli anziani, i portatori di handicap, gli studenti, per consentirgli una maggiore partecipazione alla vita pubblica.